La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Questo governo con questo decreto sposta tutto l'ambito dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda le norme a tutela delle vittime delle violenze sessuali in modo molto più efficace dalla parte della donna, per 5 buoni motivi. Il primo, l'ergastolo diventa la sanzione per chi ha commesso un omicidio in occasione di delitti inerenti alla violenza sessuale. Il secondo motivo, si estende il carcere obbligatorio preventivo, quindi la custodia cautelare in carcere, per i delitti di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di violenza sessuale, e comprendete bene come questo porta un dato di modernità nel nostro codice, visto che si tratta anche di fenomeni molto recenti dal punto di vista del loro dispiegarsi. Terzo elemento, l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e per violenza sessuale di gruppo. Ciò produce come conseguenza la possibilità di accesso al rito direttissimo e quindi la possibilità di mandare in giudizio i criminali anche nell'ambito delle 48 ore successive. Quinto, il decreto legge estende a tutte le vittime dei reati di violenza sessuale il patrocinio gratuito a spese dello Stato. E abbiamo sentito cosa ha fatto il governo per cercare di arginare questa nuova ondata di violenza sulle donne. Abbiamo sentito il ministro della giustizia Angelino Alfano. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto antistupri. Si parla anche di ronde, ma questa volta non armate. E Berlusconi, il premier Berlusconi, dice: l'abbiamo fatto d'urgenza sull'onda del clamore. Ma la realtà è che nel 2008 gli stupri in Italia sono diminuiti. Saranno anche diminuiti, come dice il Premier, però sono comunque dei crimini molto efferati e purtroppo quello che sta succedendo è una reiterazione molto molto preoccupante. Per parlare di questo argomento abbiamo con noi il consigliere Simonetta Matone, capo gabinetto del Ministero per le Pari Opportunità, e la senatrice Vittoria Franco del Partito Democratico. Partirei subito con il consigliere Simonetta Matone, che nella vita è un magistrato, e vorremmo proprio chiederle a lei qual è la sua esperienza su questo tipo di reati. Ma guardi, la mia esperienza è un'esperienza più che ventennale, perché io sono entrata in magistratura 29 anni fa, sono stata per 17 anni pubblico ministero per i minorenni e quindi mi sono occupata sia dal versante, diciamo, della protezione dei soggetti minorenni, sia dal punto di vista, come dire, delle vittime maggiorenni che comunque richiedevano una urgente protezione, e sono molto molto personalmente molto favorevole a questo provvedimento, perché lo ritengo non una misura emergenziale, ma lo ritengo una misura capace di contrastare radicalmente un fenomeno gravissimo quale quello della violenza sessuale, e soprattutto da non sottovalutare il fatto che è stato introdotto all'interno di questo decreto legge la parte relativa al cosiddetto stalking, agli atti persecutori, reato sempre sottovalutato e viceversa gravissimo, perché di solito commesso in danno di donne e bambini che non sono più in grado, come dire, di difendersi. Quindi diciamo che l'assetto complessivo del decreto a me sembra altamente positivo, anche se è vero quello che lei dice, che in realtà le violenze sessuali non sono in aumento, o vale a dire sono state in aumento dal 2006 al 2007. Io ho esaminato con attenzione i dati del Ministero dell'Interno, c'è stata una flessione circa dell'8% nel 2008, va detto che il 60% degli autori di reato circa sono italiani, ma va anche detto che il 24% sono rumeni, che se rapportati alla percentuale di cittadini stranieri appartenenti a questa nazione presenti sul nostro territorio, è una percentuale, a mio giudizio, impressionante. Quindi ritengo che si sia trattato di una risposta, come dire, per così dire, giusta. Staremo a vedere poi quale sarà l'iter di questo decreto legge. Noi dobbiamo sottolineare che il consigliere Simonetta Matone non ha un incarico politico, quindi non rappresenta un partito, abbiamo detto è un magistrato, però vogliamo dare la parola all'opposizione, alla senatrice Vittoria Franco, che è un partito, lo rappresenta, il Partito Democratico, e vogliamo capire che cosa ne pensa il Partito Democratico di questo decreto antistupri. Guardi, io penso che il fenomeno della violenza sessuale contro le donne sia stato un fenomeno molto sottovalutato nei mesi scorsi e anche negli anni scorsi, e io sono convinta che il primo problema per il primo passo verso la soluzione consista nel riconoscere la gravità e l'estensione del fenomeno, perché nel 2008 saranno anche diminuiti e noi siamo naturalmente felici che siano diminuiti, sono sempre tanti, ricordiamoci che la violenza in famiglia spesso non viene denunciata, è sotto traccia, è nascosta, e questo lo sappiamo tutti perché c'è difficoltà a denunciare, ed è vero anche però che nelle prime settimane del 2009 ci sono stati quasi una quindicina di casi per stupro di gruppo, per stupro contro giovani e giovanissime che non giravano per strada da sole, magari nelle periferie abbandonate, ma erano in compagnia dei loro fidanzati, quindi sono casi veramente efferati e c'è una recrudescenza, quindi, perché se sono quasi una quindicina, io ho fatto il conto, ce n'è uno anche oggi di cui parlano i giornali, che si sarebbe verificato a Bari nel giro di 6 settimane, questo ci dice che insomma c'è una media di più di 2 stupri a settimana, quindi questo ci impressiona molto e quindi siamo contenti che venga preso in considerazione il fenomeno come un fenomeno grave. La dottoressa Matone parlava dello stalking. Guardi, io qui veramente sono rimasta quando ho sentito che in questo decreto erano state inserite delle misure sullo stalking, un po' male, devo dire, non so come giudicare sul piano politico questa misura del governo. Devo dire che quando abbiamo discusso in Parlamento del decreto legge sulla sicurezza prima dell'estate, quindi diversi mesi fa, noi avevamo presentato i nostri emendamenti perché norme efficaci sullo stalking e anche sulla violenza sessuale venissero messi in quel decreto. Ci è stato risposto che quello non era la sede giusta, perché si trattava di misure di sicurezza che riguardavano gli immigrati e quindi non era la sede giusta. Abbiamo ripresentato i nostri emendamenti in occasione del disegno di legge sulla sicurezza e ci è stato risposto dal sottosegretario Mantovano che siccome alla Camera erano già in discussione 2 provvedimenti, violenza sessuale e stalking, era quella la sede parlamentare giusta, l'iter giusto per affrontare il tema. Noi l'abbiamo criticato, sì. Naturalmente ora ci troviamo in Senato, in Commissione, a discutere della legge sullo stalking. Io stessa sono intervenuta l'altro giorno dicendo noi siamo disposti anche ad accelerare l'iter. Sì, senatrice Franco, io ho capito, lei dice perché hanno fatto un decreto sullo stalking quando è già in via d'arrivo al Senato. E che cosa vuol dire? Ma perché le dico questo? Non perché io non sia convinta della gravità del fenomeno e del reato di stalking, ma perché in questo modo, a questo punto, viene espropriato non soltanto il Parlamento ma le donne insieme stavano facendo un provvedimento, come hanno fatto alla Camera, lo stavano facendo anche al Senato, per fare un provvedimento sullo stalking, che a questo punto vengono espropriate della possibilità, ecco, di fare una cosa insieme. Consigliere Simonetta Matone, un punto di Vittoria Franco, sappiamo che l'opposizione... Sì, ho capito, ma la senatrice Franco disconosce l'uso della dialettica parlamentare e quindi considera i decreti legge un minus, visto che poi devono essere... questa è una battaglia dell'opposizione, vorrei chiarire una cosa, che in realtà all'interno del decreto che è passato oggi al Consiglio dei Ministri è stata inserita la parte dello stalking che è stata già approvata dalla Camera con il placet della sinistra. C'è stato un dibattito al quale la sinistra ha partecipato tanto in Commissione Giustizia quanto in Aula, e il testo licenziato è stato un testo condiviso da tutti. Non è stato fatto altro che prendere questo testo e trasfonderlo all'interno del decreto legge. Lei è un personaggio che appunto è tecnica e non politica, però se lei si ricorderà che ancora c'è il bicameralismo nel nostro paese. Noi eravamo disposti ad approvare, però la faccia finire, dottoressa. Ma quanto fatto alle donne se non quello di dare una legge che è immediatamente... No, ma questo è un dibattito anche politico della sinistra. Ma due obiezioni, prima di tutto perché noi abbiamo detto l'altro giorno, noi entro la settimana prossima, cioè quella che comincia con lunedì, siamo disposti ad approvare questa legge, quindi bastava aspettare una sola settimana e quindi sarebbe stato il Parlamento ad approvarla. E poi perché se siete convinti che fosse urgente, il centrodestra non ha approvato i nostri emendamenti? Allora, noi sentiremo subito dopo la pausa l'onorevole Isabella Bertolini proprio sulla decretazione d'urgenza, perché c'è un grandissimo scontro tra maggioranza e opposizione. Secondo il consigliere Simonetta Matone, dice che cosa cambia per le donne. Allora, Antonella Faieta, avvocato dell'associazione Telefono Rosa, questo decreto legge doveva essere approvato subito, è importante per le donne, quanto è importante? E soprattutto, noi sappiamo che i decreti sono facili da fare, e anche le leggi alle volte in questo paese, poi il problema è avere giustizia. Infatti, in un articolo di Repubblica, per le violenze, sei anni per avere giustizia, questa è una vostra denuncia anche di Telefono Rosa, così le donne pagano due volte e vince il silenzio. L'avvocato Antonella Faieta, quanto ci vuole da uno stupro a far sì che i propri stupratori finiscano in carcere? La media della durata di un processo di questo tipo è, appunto, come abbiamo già detto in varie sedi, circa 6 anni, quindi decisamente troppo tempo. È importante che passino le leggi, che ci siano le leggi, ma è anche importante poi che in sede di processo ci sia la giusta applicazione della pena e che, appunto, la durata del processo non sia così lunga, perché è veramente avvilente per una donna vittima di violenza vedere trascorrere tutto questo tempo prima di avere giustizia. Quindi lei dice sì, si possono anche fare le leggi, poi il problema è sempre il solito, tipico della giustizia italiana: la lentezza nei processi. Sì, però intanto dobbiamo mandare dei messaggi chiari. Il 10% delle donne che si sono rivolte nel 2007 al Telefono Rosa hanno denunciato un problema di atti persecutori, quindi adesso avranno possibilità comunque di vedere una punizione per gli autori di questi comportamenti, e anche gli autori stessi sappiano bene che stanno commettendo un reato che sarà sanzionato con una pena dai 6 mesi ai 4 anni. La quota rosa. È stata una maledetta fatalità. Ero poco più di una bambina ignorante, capisci? Avevo appena 15 anni. M'hanno presa così, come si prende un fiore da un prato. Credi che non ti direi la verità ormai? Aspetta, voglio dirti tutto. Ero in campagna dove mi avevano mandato dopo la morte di mia madre. I contadini mi tenevano come una figlia e mi avevano affidato un piccolo gregge. E lui, giovane quanto me, lui veniva qualche volta a sedermi vicino. Lunghe ore trascorse in silenzio e al caldo, mi ricordo. Quel giorno, ad un tratto, vidi passare in quegli occhi uno sguardo che mi impaurì. Fuggii, ma lui mi rincorse e mi raggiunse. Che orrore! Il ribrezzo di me stessa, il terrore degli altri, quella voce di rimpianto e vergogna e l'angoscia immensa per qualcosa di irreparabile. Pensavo a quando avrei incontrato il vero amore. Pensavo all'uomo che avrei incontrato. Pensavo a te, Silvio. E ora ti ho confidato tutti i miei segreti. Che cosa importa il resto, dico io? Silvio, ma perché non mi rispondi? Amelia Pincherle Rosselli, il suo dramma, il suo primo dramma, Anima 1898, parla appunto dell'argomento di questa puntata, approvato dal governo, il decreto antistupri. Insomma, la prima drammaturga italiana che ha scritto proprio di questo. Abbiamo lasciato una discussione in sospeso. Isabella Bertolini del Popolo della Libertà, il PD contesta il fatto che nel decreto antistupri avete messo delle norme che sono attualmente in discussione in Parlamento, quelle sullo stalking. Perché? Ma guardi, io trovo questa protesta del PD assolutamente strumentale, fuori luogo, ma soprattutto fuori tempo. La volontà di inserire questa norma nel decreto per fare in modo che le norme sullo stalking diventino operative da subito. Questa legge sulle molestie insistenti va avanti la discussione ormai da 2 legislature. Il centrosinistra fallì nella passata legislatura perché non riuscì a farla approvare. Noi l'abbiamo votata alla Camera, ma adesso iniziava l'iter del Senato. Io credo che non ci sia niente di male a far entrare tramite il decreto legge in vigore queste norme che vogliono dare maggiori tutele alle donne su un tema molto grave, molto scabroso. Oggi la casistica è elevatissima sul tema delle molestie alle donne, che spesso poi sfociano nella violenza sessuale o addirittura in violenza anche fisica fino ad arrivare all'omicidio, e quindi è un modo per dare maggiore tutela alle donne. Oggi dovrebbe il Parlamento essere unito su queste norme ed essere orgoglioso del fatto che c'è un esecutivo che con concretezza e con serietà vuole dare subito risposte serie e concrete ai cittadini e in particolare alle donne italiane. Oggi la violenza, le molestie, gli stupri sono aumentati in maniera esponenziale anche per la questione a causa dell'immigrazione clandestina, ma credo che sia un tema che dovrebbe vedere unito il Parlamento, non diviso. Quindi la trovo veramente una protesta in questa fase assolutamente stucchevole. Al testo approvato alla Camera hanno contribuito fortemente anche i rappresentanti dell'opposizione, quindi gli esponenti del PD e delle minoranze. Quindi è uscita una legge che era in discussione al Senato, assolutamente un buon testo di legge. Non vedo per quale motivo oggi non si possa dare un contributo rendendo però operativo immediatamente queste norme. Quindi sinceramente mi stupisce, ma che proprio oggi ci sia questa sì, polemica. È vero pure che però il PD, e qui sono sicura che Vittoria Franco concorda, perché leggo le dichiarazioni del Partito Democratico, protesta da molto tempo sulla decretazione d'urgenza, sull'uso un po' troppo frequente dei decreti legge. Ma qui non è un problema di decretazione d'urgenza, qui c'è un'emergenza nazionale. Allora dobbiamo decidere se la vogliamo affrontare o no. Io sono molto rispettosa del Parlamento, ritengo che soprattutto le donne in Parlamento, quando vogliono, quando si diciamo così coalizzano, riescono anche a fare leggi serie, importanti, ben ponderate. Questo avvenne alcuni anni fa con la legge sulla violenza sessuale. Oggi però nel Paese c'è un'emergenza nazionale. Non viene tolto però all'opposizione la possibilità di dibattere o di discutere. In sede di conversione del decreto legge potremo assolutamente migliorare anche quel testo, e mi auguro con anche il contributo dell'opposizione, ma oggi c'è l'esigenza di averle in vigore queste norme. Non possiamo continuare a rimandare di mese in mese, di anno in anno, delle leggi che invece servono a dare più tutele e più sicurezza alle cittadine italiane. Gli episodi degli ultimi tempi ci dimostrano e ci dicono che la gente ci chiede questo, per cui su questo tema mi piacerebbe davvero che ci fosse un afflato di responsabilità da parte di tutti. Allora, brevemente la replica di Vittoria Franco. Ma mi sorprende, perché noi sono anni che lo diciamo, perché non prima, perché non quando l'abbiamo proposto noi nel primo pacchetto sicurezza, che era un decreto anche quello, le norme sullo stalking e le norme sulla violenza sessuale. Poi ma nella scorsa legge adesso prima dell'estate c'era già il governo di centrodestra che ha già approvato un decreto sicurezza, sta facendo un pasticcio enorme sulla sicurezza questo governo, diciamocelo. Ha fatto prima un decreto, poi un disegno di legge, poi è tornato al decreto, è un pasticcio enorme. Noi sin dal primo decreto del centrodestra abbiamo detto: perché non inseriamo qui le norme sullo stalking? E il governo ci ha detto di no, compresa la ministra Carfagna. Poi l'abbiamo riproposto qualche settimana fa nel disegno di legge sulla sicurezza, e ci hanno detto col sottosegretario Mantovano che siccome era in discussione alla Camera l'argomento bastava aspettare un po'. Allora perché non aspettare una settimana e farlo approvare dal Parlamento con tutto il contributo di tutte le donne, come noi avevamo chiesto l'altro giorno, proprio giovedì scorso, mercoledì scorso. Insomma, però avete talmente tanto insistito che alla fine il governo vi ha dato ragione. Io vorrei chiudere un attimo la discussione politica che è molto accesa in questo periodo tra disegno di legge e decreto legge, che ricordiamo è un decreto approvato dal governo immediatamente in vigore per motivi di necessità e d'urgenza, per andare poi di nuovo nello specifico. Primo, finalmente è stato approvato l'uso della penna al peperoncino, quindi praticamente questa penna si potrà acquistare in tabaccheria e si potrà sparare, diciamo, il contenuto che è innocuo nel lungo periodo ma è molto urticante nell'immediato per eventuali assalitori. Antonella Faieta, avvocato dell'associazione Telefono Rosa, è un primo passo? Sarà utile questo strumento? sì, è un primo passo, bisogna comunque che le nostre città siano più sicure, quindi non solo questo, bisogna che le donne possano circolare a qualsiasi ora del giorno e della notte senza avere il terrore di essere assalite, quindi benvengano comunque anche questi provvedimenti di aumento dell'organico delle forze di polizia. Noi contiamo molto che appunto siano accesi sempre i riflettori su questo problema della sicurezza per le donne. Perfetto. Simonetta Matone, capo gabinetto del Ministero per le Pari Opportunità, lei è un magistrato, perché i processi sono così lenti? Verrà utilizzata in questi casi, nel caso di violenza sessuale sia semplice che di gruppo, anche il rito direttissimo, perché essendo possibile arrestare in flagranza e applicare la misura cautelare, sarà più semplice scegliere la strada, una volta che questi soggetti saranno individuati, di procedere al rito direttissimo, togliendo di mezzo quindi tutte quelle lungaggini processuali che si sono riverberate negativamente, in maniera proprio purtroppo ormai conclamata e certa, che si sono riverberate sulla vita delle donne. Quindi ritengo che lo strumento più appropriato sia stato proprio questo, perché in virtù di questo strumento, per così dire apparentemente solo tecnico, noi otterremo dei risultati pratici e enormi sul piano del contrasto alla violenza di genere. È un dato che non va sottovalutato, è un dato sul quale bisogna riflettere, perché noi dobbiamo essere uniti, compatti e operativi per difendere le donne e tutti i soggetti deboli che si trovano a vivere questi drammi. Brevissimamente, perché siamo in chiusura, Isabella Bertolini, il presidente della Camera Gianfranco Fini, dice: sono immigrati, non tutti gli immigrati sono criminali. Questa ondata di stupri che ha avuto purtroppo tra i criminali, appunto, molto spesso dei rumeni, non rischia di acuire uno scontro xenofobo nel nostro paese? No, questo assolutamente no. Io condivido il fatto che non tutti gli immigrati sono criminali e quindi questa equazione è sbagliata. Dobbiamo però anche non essere demagogici o troppo buonisti, dobbiamo riconoscere, perché questo ce lo dicono le statistiche, ce lo dicono sociologi, peraltro di chiara fama, che vengono dalla sinistra e non dal centrodestra, che c'è stato un incremento di un certo tipo di reati, soprattutto in materia di violenza sessuale, da parte degli immigrati clandestini, in particolare di alcune etnie. E questo non ce lo dobbiamo nascondere. Quindi con grande senso di realismo dobbiamo affrontare il problema, dobbiamo certamente non sollecitare, diciamo, la voglia dei cittadini di farsi giustizia da sola, o quelli che possono essere dei sentimenti anche di, in qualche modo, che sono naturali, anche che potrebbero essere di tipo xenofobo, però dobbiamo riconoscere che il tema della clandestinità è un tema serio che ha portato meno sicurezza nel nostro paese, più disordine pubblico, e soprattutto su questi reati nei confronti delle donne i dati parlano chiaro. Quindi su questo nessuna tolleranza, nessuno buonismo. Io colgo anche questa occasione per fare appello, e lo dico alla senatrice Franco con amicizia, perché ne apprezzo l'intelligenza e le battaglie. Dobbiamo essere uniti a fare una battaglia che è nell'interesse della legalità, ma soprattutto della sicurezza delle donne. Di fronte ai casi che sono successi, alle violenze brutali, bestiali a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, dobbiamo avere la forza di mettere da parte anche quelle che possono essere delle legittime rimostranze politiche. Io posso capire quello che ha detto la senatrice, ma dobbiamo avere la forza di rendere operative queste norme, perché c'è davvero una necessità di legalità e di sicurezza nel paese a cui dobbiamo dare risposta con senso di responsabilità. Sì, infatti, un minuto in chiusura, appunto, le volevo dare la parola, senatrice Franco. Benissimo, no, io voglio dire che soprattutto quando parliamo di violenza dobbiamo pensare alla prevenzione, perché certo se ci troviamo a occuparci sempre dell'emergenza, cioè dell'aspetto finale, dell'atto già compiuto, ci troveremo poi a prendere provvedimenti come quelli che sono stati presi d'urgenza. Io credo che dobbiamo invece molto puntare sulla prevenzione, su campagne di educazione al rispetto della donna, perché questo sta venendo a mancare. Noi cominciamo a vivere in una società un po' imbarbarita, ma non soltanto perché non ci sono gli immigrati, perché non c'è rispetto per la donna, ecco, e per la sua libertà anche all'interno della famiglia, e quindi questo richiede un impegno molto più oneroso, molto più importante e molto più grande, che ci riguarda davvero tutti: la prevenzione, piani antiviolenza che prevengano la violenza in famiglia e nelle strade. Ci potrà essere un voto bipartisan? Io so che voi siete molto contrari a queste ronde, però saranno decise dai prefetti, magari su altri punti di questo disegno di questo decreto legge? Beh, ci sono alcuni punti che noi condividiamo, per esempio il patrocinio gratuito per le vittime, questo addirittura noi l'avevamo proposto anche per il reato di stalking, però non è stato accolto dal governo, lo riproporremo nel momento in cui si dovesse ripresentare l'occasione, e su alcuni punti siamo assolutamente d'accordo, lo valuteremo nel suo complesso e poi prenderemo la nostra decisione. Noi ringraziamo le nostre ospiti e soprattutto diciamo Isabella Bertolini, quindi, che ci potranno essere dei punti di convergenza, noi ce lo auguriamo per la salute di tutte le donne di questo paese. La quota rosa. La donna si innamora del volontario forte e coraggioso che parte per il fronte, ma lo tradisce col primo venuto, acerbo, riformato o vecchio, se questi sa scegliere il tempo opportuno. Il tempo è sempre opportuno poiché il fidanzato o il marito è trattenuto militarmente lontano. La pioggia che contraria gli attacchi al fronte favorisce invece sempre la penetrazione del primo venuto nei nervi femminili sulla spiaggia. Tutte le donne adultere mentiscono quando dichiarano al proprio amante che non si danno mai o quasi mai al marito. La guerra prova che la donna ha bisogno dell'amplesso quotidiano. Se la donna è a fondo vile, tradisce volentieri l'amante o il marito che si batte al fronte per simpatizzare con colui che non si batte e per vendicarsi della sua inferiorità di neutrale. La donna preferisce un asinello vivo a un bel cavallo morituro. E abbiamo sentito le parole di Filippo Tommaso Marinetti, come si seducono le donne. Proprio il Manifesto del Futurismo compie 100 anni e viene festeggiato ampiamente sia a Roma che a Milano. Da ieri sera è aperta la mostra sul futurismo alle scuderie del Quirinale. Noi abbiamo con noi Esther Cohen, curatrice della mostra sul futurismo, e le chiediamo subito fino a quando andrà avanti, che cosa è contenuto in questa mostra. Come viene vista poi la donna, se c'è effettivamente qualche cosa che riguarda l'aspetto femminile? Buongiorno. Certo, buongiorno. La mostra dura fino al 24 maggio e poi in seguito da giugno andrà alla Tate di Londra. E la mostra contiene i capolavori del primo momento futurista, quindi le opere di Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla dal 1909 al 1915, e poi c'è una sezione dedicata al raffronto tra l'avanguardia italiana e le avanguardie internazionali, quindi con opere del cubismo francese, del vorticismo inglese, del cubo futurismo russo, raggismo russo e sincromismo americano. In sintesi questo è il contenuto della mostra. Per quanto riguarda il senso, il rapporto che Marinetti aveva con l'immaginario femminile, direi che ci sono state anche delle interpretazioni forse un po' forzate, un po' sbagliate, perché è vero che il Marinetti del 1909 nel suo manifesto declama in tono anche provocatorio, direi, questo disprezzo della donna, ma è un disprezzo che non è legato alla figura femminile, ma alla concezione di quello che la società in quel momento aveva nei confronti della donna, quindi la donna emancipata, quella, la donna pittrice, la donna artista, la donna creatrice, invece è esaltata e molto amata da Marinetti. Basti pensare al parterre di figure femminili che ruotano intorno al futurismo, soprattutto nei primi anni. Quindi lei non crede che poi Marinetti fosse un antifemminista? No, assolutamente no, penso che questa maniera provocatoria che appartiene proprio alla personalità di Marinetti è anche una maniera per comunicare più velocemente con più forza le idee del futurismo in una società, soprattutto quella italiana di quegli anni, che era una società piuttosto arretrata, era una società ben pensante, una società accademica. Penso che questa violenza questa forza provocatoria avesse maggiore possibilità di inserirsi e di penetrare nell'immaginario collettivo. Allora, la mostra si occupa soprattutto dell'aspetto più importante del futurismo, che è quello delle arti figurative, giusto, dottoressa Cohen? Sì. Mentre Marinetti poi più che altro fu il fondatore con il suo manifesto dirompente e molto si è detto su di lui, però più che altro voi vi occupate, come lei diceva, degli artisti che poi produssero arte figurativa. Quali sono le opere più belle da vedere per il pubblico che magari entra in questa mostra, non sa molto di futurismo, vuole cogliere quelli che sono stati i masterpiece, cioè i pezzi più importanti per capire un movimento? Le opere più importanti futuriste di questa mostra sono L'idolo moderno di Boccioni, I tre stati d'animo di Boccioni, I funerali dell'anarchico Galli di Cassà, La rivolta di Russolo, di Severini, ci sono i corpi di viaggio, le danzatrici gialle, direi che ci sono i capolavori più importanti del momento iniziale, del grande momento d'impulso di questa avventura futurista. Quando è che poi a un certo punto il futurismo diventa si sgretola anche un po' nell'adesione al fascismo, insomma, quando è che è un momento che lei vede come decadente rispetto a questo momento iniziale al quale è dedicato? In realtà non c'è un momento di decadenza, c'è un momento ci sono momenti continui di rinnovamento, così com'è la personalità di Marinetti. Certamente questa tangenza con il fascismo avviene anche in un momento molto drammatico della storia italiana, e quindi questo momento, forse non parlerei di decadenza ma di trasformazione, ma nel frattempo il movimento e le idee di Marinetti erano andate molto avanti, quindi c'era stato il coinvolgimento di tutte le arti possibili, quindi dalla danza, la letteratura è il primo, è la forma iniziale di poetica intorno alla quale agisce Marinetti, ma poi saranno coinvolte tutte le arti. Abbiamo detto che il futurismo fu anche, come lei ci ha proprio informato, un fenomeno che riguarda le donne. E a proposito di questo c'è un volume edito da Castelvecchi che si chiama Futuriste, un volume che è proprio letteratura, arte e vita. Abbiamo con noi Alessandra Gambetti, direttrice editoriale della casa editrice Castelvecchi di Roma. Allora, questo volume a chi è dedicato? Buongiorno, innanzitutto a tutti gli appassionati di turismo e principalmente a tutte le appassionate non solo di futurismo ma anche di letteratura, di cultura, di arte, di fotografia, di pittura, di danza, perché le donne nel futurismo espressero a livelli molto apprezzabili e per certi versi rivoluzionari rispetto al passato, espressero proprio la loro tempra di artiste. La decisione per noi di pubblicare questo volume è venuta immediatamente rispetto alla celebrazione del centenario del futurismo, perché all'interno della casa editrice Selvecchi non poteva ovviamente mancare un'attenzione particolare a questa avanguardia. Il compito di affidare alle donne, alle artiste e, diciamo la verità, anche un po' misconosciute che all'interno del movimento si erano espresse, è stato una motivazione in più, appunto per rendere in maniera il più possibile vitale il senso di un'avanguardia, di una attenzione all'arte ancora viva e di dare un senso appunto al di fuori della celebrazione di una possibile lettura accademica del fenomeno, il senso proprio di un'avanguardia ancora vitale e la cui eredità potesse essere anche ripresa. Il volume, che è piuttosto copioso e insomma un bel volume, è un'antologia praticamente, un'antologia di tutte queste donne, non è vero? È un'antologia di tutta la produzione, che questo è appunto numeroso, e come ho detto sono circa una quarantina le artiste rappresentate, produssero nel campo delle varie arti, dalla poesia alla pittura, alla fotografia, alla danza. Ci sono sia testi antologizzati, sia testimonianze che riguardano vari esponenti del movimento futurista, quadri ovviamente, fotografie, coreografie riportate. In particolare voglio ricordare qui la bellissima copertina che rappresenta Giannina Cenzi nell'atto di interpretare la danza aereo futurista, che per noi ha esercitato quasi una sorta di fascinazione, che ci ha guidato proprio anche nella scelta dei testi. Questa figura di donna totalmente moderna nel presentarsi in un costume succinto, balneare alluminico veniva chiamato, disegnato da Trampolini, in una proprio esplosione di armonia, di grazia e allo stesso tempo appunto di modernità e di rottura rispetto ai canoni precedenti, che volevano la donna appunto magari in abiti assolutamente costrittivi e repressivi. E infatti qui abbiamo proprio le foto, quindi un bellissimo volume anche da sfogliare, da vedere, soprattutto per le foto delle donne che appaiono in una maniera completamente diversa. La quota rosa. Una signorina che si rispetta ha perlomeno 3 fidanzati in tempo di guerra. Matematicamente ogni marito che sia tradito e fiducioso nella onestà della moglie istintivamente odia e disprezza colui che ne è stato l'amante, ama e stima colui che ne è l'amante, adora e ammira colui che ne sarà l'amante. La donna nuda è leale, la donna vestita è sempre un po' falsa, la carne della donna è sempre buona. Lo spirito della donna tende alla cattiveria e alla perfidia. Ogni seduttore deve svestirsi e rivestirsi con la massima velocità. Ogni seduttore non deve mai farsi vedere in camicia. Ogni seduttore calvo deve mettersi prima il colletto che le calze. Per capire bene la conversazione di una donna bella, bisogna ascoltarla col naso. Per contemplare la sua anima, bisogna guardare con l'orecchio l'arabesco fonico della sua voce. Il cervello è un motore aggiunto e inadatto al chassis della donna, che ha per motore naturale l'utero. Il cervello sforza, sfascia e deforma la donna che lo porta. E queste sono le parole di Filippo Tommaso Marinetti. Abbiamo con noi Esther Cohen, curatrice della mostra sul futurismo alle Scuderie del Quirinale. Vogliamo ricordare questa mostra che è aperto ieri, che sarà a Roma fino al 24 maggio, ma ce n'è anche un'altra, e lo dobbiamo dire proprio perché il futurismo compie 100 anni e sarà al Palazzo Reale di Milano dal 6 febbraio al 7 giugno. Allora, Esther Cohen, quindi lei dice il futurismo invece rappresentò uno spartiacque per la figura femminile. Questa è la sua... No, non necessariamente. Voglio dire che si colloca in un momento storico in cui la percezione della personalità e della figura femminile si cambia, e quindi certamente questa pensiero futurista e anche questo accogliere delle figure femminili, non so, basti pensare alla Zatkova, alla Exter, questo nel primo periodo, poi nel secondo ci saranno tantissime personalità, questo ecco, è un motore sicuramente dinamico che spinge a riconoscere nella donna una dimensione che non è unicamente quello della casalinga borghese dedita ai figli a certi compiti, sì. Allora, io la saluto perché so che ha molto da fare. Claudia Salaris, studiosa delle storie, delle avanguardie e una delle massime esperte italiane sul futurismo. Come cambia la figura della donna con il futurismo? Intanto la lettura di quel brano, giustamente è stato notato, era ironico, anche ironico. Anche, perché io non sono così certa. Guardi, che poi a me fa un po' arrabbiare. Il futurismo, certo, ma guardi, io vengo dalla storia del femminismo, se vogliamo, e mi sono dedicata alle donne futuriste per prima una 30ina di anni fa. E devo dire anche che incontrare le ultime superstiti mi ha fatto capire la forza di quelle donne, la loro volontà, la loro intelligenza, il loro voler essere donne creative. Io direi però questo, a fianco di quelle frasi anche ironiche, forse bisognerebbe leggere altri passi di Marinetti, quelli per esempio in cui parla della liberazione della donna, parla del voto alle donne, dei diritti delle donne. Nel futurismo c'è stato un po' tutto e quindi prendere solo un pezzetto non aiuta a capire la complessità del fenomeno. Io penso che quelle frasi così, diciamo, fastidiose, certamente fastidiose, ma anche ironiche, erano delle frasi gettate lì per creare dello scompiglio, dello sconcerto, come il famoso disprezzo della donna nel manifesto di fondazione. Marinetti era un grande pubblicitario, era un uomo che voleva attirare l'attenzione, far discutere, meravigliare, e quindi gettava un sasso nello stagno perché gli altri abboccassero. In effetti questa frase viene da un libretto che si appunto si intitola Come si seducono le donne, fece arrabbiare moltissimo le futuriste che lo seguivano in quel momento, tant'è vero che Rosa Rosà, di cui ho pubblicato un romanzo nel 1981, è un romanzo intitolato Una donna con tre anime, replicò e disse: le donne stanno cambiando, noi non siamo il tonico degli uomini, l'uomo non è il seduttore, la donna la magnifica preda. Quindi tutto questo serviva anche un po' per discutere e fare della pubblicità intorno all'argomento. Giancarlo Carpi, un uomo, è l'autore del libro Futuriste. Prima di tutto io le voglio fare una domanda: perché un uomo decide di dedicarsi a delle donne futuriste? Ma sinceramente l'interesse è innanzitutto quello di riportare in luce alcuni testi letterari appunto dimenticati o comunque poco conosciuti per la loro bellezza, per il loro interesse, valore critico. Mi riferisco in particolare ad alcune cose di Maria Ginanni e degli anni 10. D'altra parte, per me scrivere o comunque comporre questo volume è stato interessante e congeniale anche perché ho cercato di tracciare una storia della visione della femminilità nel futurismo, accostandola alle parti antologiche e critiche. Ecco, quindi, siccome lei ha scritto un'opera piuttosto copiosa, che cosa ha scoperto? Perché poi l'ha diviso in varie sezioni, ho visto. Sì, innanzitutto io credo che in un movimento come il futurismo, semplicemente accostando materiali diversi, storici e letterari innanzitutto, ma poi anche fotografie, e si abbia un naturale vantaggio percettivo e anche di comprensione delle singole esperienze di queste artiste. D'altra parte, come l'ho detto, questo volume è così ampio anche perché tenta di accogliere una parte critica sia di autori nei confronti delle letterate o delle artiste trattate, ossia una parte critica o di poetica prodotta dalle autrici stesse. In questo senso potremmo dire che le parti antologiche, il materiale antologico è sia letterario sia figurativo, e tutto ciò che è intorno, materiale critico, è da commento a queste due parti antologiche. Per scoprire di più sulle donne futuriste, io chiuderei con un'ultima domanda flash proprio a Claudia Salaris, studiosa appunto delle avanguardie e una delle massime esperte del futurismo italiano. Chi è stata la più grande futurista? Guardi, la grandezza del futurismo è stata proprio di essere un laboratorio, un gruppo di persone, un dare e avere, un fornire l'un l'altro le idee. Marinetti entrava nei manifesti degli altri artisti, pittori, architetti, riceveva da loro stimoli. Io non farei delle graduatorie, però devo dire che complessivamente, come dicevo prima, la forza di queste donne è stata veramente enorme. Molte di loro sono scomparse, alcuni nomi non dicono più niente, però nell'insieme hanno dato un contributo veramente forte. Due nomi però ce li deve fare. Ma io voglio ricordare da una parte Benedetta, che è stata un'artista totale, perché è stata pittrice, scrittrice, molto raffinata, scenografa, e rappresentava un aspetto del futurismo, direi più interiore, più legato a una certa ricerca non così eclatante. Io scrissi scrissi tanti anni fa, che probabilmente nel tattilismo, nell'arte tattile lanciata da Marinetti nel 21, lei aveva avuto un ruolo fondamentale, era stata maestra, conosceva i giochi didattici della Montessori, e questa elaborazione di un'arte che nasce sui polpastrelli, sfiorando degli oggetti, perché questi oggetti creino degli stimoli nel corpo e quindi la mente si è accesa da questa esperienza tattile, io credo che le debba moltissimo questo tipo di ricerca. Voglio ricordare Fulvia Giuliani, che era la prima attrice del Teatro degli Indipendenti di Bragaglia. L'ho conosciuta, era malata, vecchia in un letto, ma con una mente lucida e forte, e la ricorderò sempre come proprio l'emblema della donna cresciuta all'inizio del secolo. Aveva 17 anni quando diventò futurista, sfidò la sua famiglia e soprattutto con il suo atteggiamento mentale riuscì a ribaltare certi canoni, certi stereotipi femminili, questo negli anni 10. Allora, ricordiamo Futurismo, la mostra Le Scurerie del Quirinale fino al 24 maggio, ricordiamo pure che ci sarà una mostra dal 6 febbraio al 7 giugno al Palazzo Reale di Milano. Ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla Quota Rosa @radio24.it. Una buona giornata futurista da Elisabetta Fiorito. Mm-hmm.